Letture di Radio 24. Io non dimentico, non ti dimentico. Il primo amore non si scorda mai. Chi si innamora per la prima volta prova qualcosa di simile alla dipendenza da cocaina. Lo sostengono alcuni ricercatori dell'Università Statale di New York. Come scrive Vittorio Zucconi in un articolo pubblicato su Di La Repubblica, i ricercatori della Statale di New York, assieme agli psicologi della Connecticut University, ipotizzano che nel primo amore si concentrino fattori potentissimi, capaci di scolpirlo per sempre nella memoria. Il primo amore non si scorda mai. L'età, l'adolescenza, è il tempo che illumina tutto. Gioie e sconfitte, vittorie e delusioni, con la nitidezza di un raggio laser dove tutto è amplificato e vivido. Poi gli ormoni scatenati, l'ansia, la felicità, le emozioni, la paura, che concorrono a rendere unica e dunque irripetibile quell'esperienza. Chi si innamora per la prima volta prova qualcosa di simile a una dipendenza da cocaina, azzardano alla Statale di New York. Non si pensa ad altro, non si può farne a meno. La vita è organizzata in funzione di quel momento nel quale si potrà avere una dose di lui o di lei, in un attimo di soddisfazione che non soddisfa, ma produce subito il desiderio di altra droga. Quelli del Connecticut pensano invece al paracadutista che per la prima volta si lancia nel vuoto. Potrà poi farlo centinaia di volte, ma nessun volo successivo raggiungerà mai la vertigine e l'eccitazione del primo salto nell'ignoto, o il dolore straziante della caduta. Ma la prova più convincente di quanto sia indelebile quel primo amore è venuta dall'esplosione dei social network, soprattutto da quel Facebook dove i partecipanti espongono il proprio volto, la propria storia, la propria vita all'infinito di Internet. Da quando esistono queste reti, un numero non ancora quantificato ma già consistente di amori adolescenziali o giovanili si sono riaccesi fra adulti che ritrovano quella ragazzina, quel biondino timido, quell'amore magari mai espresso, e riannodano i fili dell'esistenza. Ha commosso la storia d'amore di Jeff Stork e di Dennis Pavone, un uomo e una donna cinquantenni che, dopo matrimoni finiti, figli già grandi e il ricordo amarognolo di una passione bruciata nell'equivoco di lettere ancora di carta, male interpretate come addii, si sono ritrovati attraverso Facebook. Le foto ci mostrano un uomo di mezza età, ormai quasi calvo e deplorevolmente fuori forma, accanto a una signora che neppure con cascate di pizzo e svolazzi di tulle riesce a nascondere la propria sostanziale rotondità, ma che sorridono in estasi, dichiarandosi marito e moglie, mentre si dicono, affettuosamente mentendo, di rivedere l'uno nell'altro esattamente la ragazzina snella e il capellone che avevano baciato per l'ultima volta 30 anni prima. I casi di amori perduti e ritrovati via social network si stanno moltiplicando, ed è un fenomeno troppo recente per sapere se quel filo riannodato tenga, anche dopo il brivido della riscoperta. Ma per ora è bello illudersi che la corsa dell'acqua verso l'oceano possa essere fermata e riportata alla fonte, e si possa vivere per due volte la prima volta. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Vittorio Zucconi, Il primo amore grazie a Facebook non si scorda mai, pubblicato il 23 luglio sul magazine di La Repubblica. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Letture di Radio 24. I ricercatori ha scoperto che un ricordo tira l'altro, ovvero che due o più eventi che si verificano a breve distanza l'uno dall'altro sono codificati dallo stesso gruppo di neuroni. Per cui, quando anche dopo molti anni ne ricordiamo uno, è probabile che ci venga in mente anche l'altro. I meccanismi che permettono alla memoria di creare collegamenti fra i ricordi di eventi diversi sono stati identificati da un gruppo di ricercatori dell'Università di Toronto, in Canada, che hanno scoperto che se due eventi avvengono a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, la loro memoria è conservata da gruppi di neuroni notevolmente sovrapposti. In che modo vengono associati i ricordi nell'amigdala? Ricerche precedenti hanno mostrato che le tracce dei ricordi, o engrammi, sono codificate da gruppi di neuroni in varie strutture cerebrali, fra le quali spiccano l'amigdala e l'ippocampo. L'amigdala, in particolare, ha un ruolo centrale nell'immagazzinamento di ricordi emotivamente importanti. I ricercatori si sono chiesti in che modo l'amigdala sceglie fra le sue diverse decine di migliaia di neuroni quelli destinati a codificare un ricordo particolare e come stabilisce una relazione fra un ricordo e un altro. In una serie di esperimenti su topi, i ricercatori hanno scoperto che dopo la codifica di una memoria in un engramma, le cellule che lo compongono rimangono attive per un paio d'ore prima che i loro livelli di eccitabilità inizino a calare. Grazie a questo stato di particolare sensibilità, se in una finestra temporale di circa 6 ore si verifica un secondo evento, il suo ricordo viene codificato dagli stessi neuroni che avevano codificato il primo. Se un evento notevole avviene dopo 6 ore, invece viene mobilitata un'altra popolazione di neuroni. I due engrammi non sono quindi collegati e gli eventi sono ricordati come del tutto separati. In una successiva serie di esperimenti, i ricercatori hanno sfruttato le tecniche di optogenetica che permettono di attivare o disattivare selettivamente specifici gruppi di neuroni grazie a un impulso luminoso trasmesso attraverso una fibra ottica impiantata nel cervello per tentare di collegare o separare artificialmente due ricordi formatisi dopo un lasso di tempo lungo oppure breve. Hanno così scoperto che stimolando i neuroni del primo engramma in concomitanza di un secondo evento verificatosi oltre 24 ore dopo, una situazione che richiama uno di essi richiamava anche l'altro, dimostrando che la fusione dei ricordi era riuscita. Se si cancella un ricordo, il puzzle dei ricordi a cui esso è più strettamente collegato va in pezzi e anche il loro richiamo può diventare problematico. Ma se si cerca invece di separare i ricordi di due eventi avvenuti entro 6 ore, la seconda memoria viene compromessa e anche questo suggerisce che le due memorie siano intrinsecamente connesse. Il controllo dell'attività neuronale nell'amigdala ha inoltre indicato che quando si forma un engramma, i neuroni coinvolti inviano dei messaggi che inibiscono l'attivazione dei neuroni circostanti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Un ricordo tira l'altro, ecco come, pubblicato il 27 luglio sul sito della rivista Le Scienze. Se gli eventi avvenuti a breve distanza sono strettamente collegati nei nostri ricordi, ci sono periodi della nostra vita che non riusciamo quasi mai a ricordare e sono quelli legati alla nostra infanzia. Mai prima dei 2 anni, a volte anche dopo 6 o 7. A seconda delle culture, l'età del primo ricordo è variabile. Resta fissa però una certezza, che dei lunghi mesi dell'infanzia nessuno conserva alcuna memoria, nulla, zero. Il periodo dei primi denti, dei primi passi, delle prime parole resta nell'oscurità e solo i racconti di genitori e parenti, con tanto di immagini e riprese d'epoca, possono aiutare a colmare il vuoto. A volte in modo così subdolo da aiutarci a fabbricare finti ricordi. Ma perché succede? È un grande mistero. Finora neuroscienziati e psicologi hanno arrischiato solo qualche ipotesi, ma nessuna definitiva. Prima di loro ci aveva provato anche il povero Sigmund Freud, immaginando un caso di censura totale di pensieri sessuali molto intensi. Non sembra il caso. A quanto pare, spiega Ki Wang della Cornell University, la questione subisce anche influssi culturali. Se mantenere i ricordi del passato viene considerato importante, allora anche i bambini cominceranno prima a ricordare. Lo si nota confrontando le memorie degli americani e dei cinesi. Nel primo caso, i primi ricordi sono più antichi, ancora di più per quanto riguarda i neozelandesi Maori, cultura molto concentrata sulla conservazione del passato. Molti di loro conservano immagini di eventi di quando avevano 2 anni e mezzo. Ma a parte queste differenze, il dato di fatto rimane inalterato e nemmeno l'idea, sostenuta da alcuni linguisti, che i ricordi siano legati al linguaggio, appare plausibile, dal momento che le date dei primi ricordi sono le stesse anche per i sordomuti. E allora l'unica risposta possibile, liberato il campo da tutte le altre, è che i bambini nei primi anni di vita non accumulano ricordi per la semplice ragione che il loro cervello non è ancora pronto per farlo. Lo sostiene Jeffrey Fagan della St. John's University. Sulla base di una serie di esperimenti ha potuto notare che la formazione dell'ippocampo alla nascita ancora poco sviluppato sia collegata con la possibilità di creare nuovi ricordi. Se l'ippocampo non è pronto, allora è impossibile fissare la memoria. Questo non vuol dire che non sia possibile l'apprendimento. Anzi, i bambini e anche le persone che riportano traumi all'ippocampo non riescono a fissare i ricordi, ma continuano a imparare, pur non avendo coscienza di come. Non a caso, all'età in cui il cervello smette di creare nuovi neuroni, cioè quando il processo di formazione dell'ippocampo è concluso, il soggetto comincia a ricordare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Link Pop «Perché non riusciamo a ricordare la nostra infanzia?», pubblicato il 29 luglio sulla rivista online L'Inchiesta. Anche volare un tempo pareva un'impresa impossibile e oggi invece è banale quotidianità. E dunque anche il sogno di viaggiare nel tempo potrebbe realizzarsi un giorno? Sono gli astrofisici a rispondere a questo interrogativo e la loro risposta sa di sentenza. Alan Everett e Thomas Roman della Tufts University non lasciano spiragli a chi sogna di muoversi graziosamente da un'epoca all'altra. Non si può oggi, né si potrà mai, perché non si potrà mai raggiungere quella che è la condizione essenziale, superare la velocità della luce. Ci sono, è vero, contorsioni spaziali in cui la velocità della luce, se non è superata, è quantomeno aggirata. È il caso di quelli che sono stati ribattizzati wormhole, buchi letteralmente, in cui oggetti e persone possono muoversi a velocità superiore a quella della luce. E Interstellar? E quelle scene stupende che permettono a un padre di essere più giovane della figlia invecchiata? Suggestioni cinematografiche di grande fascino, certo, ma che non vinceranno la tirannia della fisica. Il sogno affascinante di spostarsi tra le varie epoche della storia dell'umanità, del mondo e dell'universo è destinato, a quanto pare, a rimanere confinato nei recinti dell'immaginazione. Qui ci sono i voli nel tempo, i paradossi dei nipoti che uccidono i figli e dei vecchi che consegnano ai se stessi giovani i risultati delle corse di 50 anni per farli diventare ricchi con le scommesse. Là fuori, invece, c'è la grave realtà, in cui non si può né si potrà mai superare la velocità della luce, condizione essenziale per potersi spostare nel tempo. Certo, la teoria, e in alcuni casi anche la realtà, ammettono l'esistenza di contorsioni spazio-temporali in grado di aggirare, non di annullare, il limite della velocità della luce. I wormhole ne sono un esempio. Si tratta di corridoi, o meglio, di scorciatoie nello spazio-tempo. Buchi attraverso cui oggetti, persone e anche la luce possono percorrere la stessa quantità di spazio in un tempo minore rispetto a quella standard. È un modo di superare la velocità della luce, cioè della luce che non passa attraverso il wormhole, e di battere di conseguenza i limiti del tempo. È ipotizzabile? Sì. È possibile? No. Come spiega Thomas Roman, finora i risultati scientifici, anche quelli emersi dopo la stesura del libro, hanno solo confermato che né i wormholes né la fantascientifica propulsione a curvatura sono cose realizzabili. Sarebbe bello, certo, ma noi dobbiamo tenere conto di ciò che dice la natura, e la natura non ha nessun obbligo di soddisfare le nostre speranze e i nostri desideri, dice Roman. Del resto, continua, è capitato più volte, mentre lavoravo su vari progetti, di lasciarmi guidare dal mio intuito. Spesso ero così sicuro di aver ragione da voler scommettere un mese di stipendio. Era vero quello che pensavo. Doveva essere vero. Per fortuna nessuno ha mai accettato di scommettere con me, perché ogni volta mi sbagliavo di grosso. Meno male. Lo diceva anche il grande fisico Richard Feynman. Il primo principio è non ingannare te stesso, perché proprio tu sei la persona più facile da ingannare. L'intuito, insomma, certe volte funziona, certe altre No. La scienza invece insegna a controllare ogni passaggio. Come compensare? Con la fantascienza, in particolare quella che cerca di rispettare il più possibile i teoremi della fisica. Ho apprezzato molto Interstellar, dice Roman. Alcune sue parti forse mi hanno un po' confuso, in particolare quella del buco nero e quella del wormhole, che sono riuscito comunque a seguire. Certo, gli effetti speciali erano meravigliosi, ma il film più interessante è L'esercito delle 12 scimmie, di Terry Gilliam. Paradossi da viaggi nel tempo, contorsioni della trama, tutti legati insieme e poi spiegati alla fine. Sì, bisogna stare molto attenti e forse guardarlo anche un paio di volte, ma, a parte gli scherzi, è il migliore per quanto riguarda il trattamento del viaggio nel tempo, meglio anche di Star Trek. E perché? Perché evita tutto il discorso dell'attenzione a non cambiare la storia mentre si va nel passato, o peggio ancora, dell'andare indietro nel tempo, cambiare l'ordine degli eventi e poi rimetterli a posto. Tutte cose che non hanno senso. Nello stesso universo non possono esserci cose che accadono e non accadono allo stesso tempo. È un'impossibilità logica. Se cerchi di andare nel passato per sparare a tuo nonno, allora si verificherà sempre una situazione che te lo impedirà. Si bloccherà la pistola o scivolerai su una buccia di banana. Oppure, in modo più banale, non riuscirai a tornare indietro nel tempo. Fisica tiranna, ma anche foriera di intuizioni profonde. Ad esempio, come spiega la relatività, si può dire che tutto esiste già, il passato, il presente e il futuro, in un'unica struttura eterna, attraverso cui si può viaggiare, certo, ma non a proprio piacere. Occorre seguire una direzione, e una sola, magari con deviazioni possibili solo in teoria attraverso i wormhole. E se per assurdo si riuscisse a inventare una macchina del tempo che permettesse di spostarsi in lungo e in largo nello spazio-tempo, ci sarebbero comunque dei limiti. Poniamo di crearla oggi. Tra 300 anni potremo tornare indietro nel tempo e vedere lo svolgersi degli eventi, assistendo a ogni secondo di questi 300 anni, ma senza poter intervenire, senza poter toccare nulla, conclude l'astrofisico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Dario Ronzoni «Perché non viaggeremo mai nel tempo», pubblicato il 29 luglio sulla rivista online L'Inchiesta.